con Albert Bucci, direttore artistico della quarta edizione del Soundscreen Film Festival Play the Movie, a Ravenna dal 21 al 28 settembre 2019. Albert, ben trovato. Grazie Federico, ben trovati anche a voi tutti i radioascoltatori. Lo raccontiamo, che cos'è questo festival? È un festival di cinema che però si focalizza sui film, sul cinema che ha come protagonista la musica. Non confondiamoci, non facciamo solo documentari o cose varie. Noi vogliamo cinema vero in cui però la musica sia protagonista, come per esempio quando incontriamo degli splendidi personaggi che vengono ospiti come Abel Ferrara e scopri che non solo è uno dei più grandi registi che noi abbiamo sempre amato, ma che è anche uno splendido chitarrista che va in tournée in giro a suonare come secondo mestiere o come seconda gioia di vivere. La quarta edizione come si caratterizzerà? Noi siamo abbastanza fedeli al nostro format tradizionale, concorso internazionale, avrete 10 film inediti in anteprima nazionale da tutto il mondo, 10 nazioni rappresentate dalla Croazia al Brasile, al Lussemburgo, alla Finlandia, alla Norvegia e adesso non mi ricordo le altre. E soprattutto quelli che noi chiamiamo gli eventi satelliti, che poi sono sonorizzazioni dal vivo di film multimusicati da gruppi contemporanei. Ne avremo quattro quest'anno e insomma siamo molto contenti. Iniziamo proprio sabato sonorizzando il primo film di fantascienza italiano, L'Uomo Meccanico. Regia e protagonista Andrea Dide, che in Italia era più noto all'epoca come Cretinetti. E niente, affidiamo questo bellissimo lavoro muto a un gruppo bolognese insieme a Luca Maria Baldini. E a seguire appunto, sempre in questo connubio tra immagine e suono, tra grande cinema e grande musica, presenteremo l'ospite d'onore del Soundscreen di quest'anno, Abel Ferrara, che non solo ci presenta il suo documentario Alive in France, appunto la storia di questa sua tournée musicale in giro per la Francia che ha fatto 2 anni fa, ma che oltre a presentarcelo ci deve essere anche con un mini concerto di una mezz'ora, appunto la sua session musicale, proprio per creare questo clima di compenetrazione tra arti. Quante saranno nel complesso le opere presentate? Noi tra l'uno, dunque, avremo una ventina di lungometraggi e una ventina di cortometraggi, perché abbiamo anche il concorso cortometraggi. Abbiamo, come vi ho detto e come vi ho detto, il concorso internazionale, abbiamo ovviamente anche vari omaggi. Il primo, l'ho già detto, Abel Ferrara, ospite speciale del festival. Quest'anno però cade anche lì, ogni tanto ci divertiamo a guardare come sono i compleanni. Quest'anno sono i 70 anni del grandissimo Tom Waits, e chi meglio anche di lui, grande interprete, grande musicista, grande compositore, ma anche spassosissimo attore. Soprattutto in quello che è il suo legame fondamentale con un altro regista che omaggiamo con una piccola retrospettiva, appunto Jim Jarmusch, che anche lui, parentesi, oltre che essere grande regista, pare che sia anche lui un ottimo chitarrista dal vivo, insomma. Sono previsti anche altri ospiti? Abbiamo sicuramente 5 o 6 registi del concorso internazionale, oltre a tutti i musicisti appunto delle sonorizzazioni. Però ecco, se venite al festival non incontrerete non solo Abel Ferrara, che è un grande maestro, ma anche dei giovani promettenti di cui siamo lieti di presentare i film in anteprima, anche perché appunto quelli che possono venire oggi magari diventeranno grandissimi domani. Su alcuni personalmente farei anche qualche scommessa. Per esempio, una grandissima ragazza della Norvegia verrà, che ha prodotto e realizzato questo fantastico film a mezza strada tra il film concerto Rapper e la satira politica norvegiana. Questo brasiliano con una storia d'amore estremamente raffinata. Quando uno dice è un film, di cosa parla? È una storia d'amore? Uno pensa, oddio, mi taglio le vene e chi se ne frega. No. Una delle cose più dolci e poetiche che abbia mai visto nella mia vita. E insomma, tanti nomi, tanti incontri per 8 giorni di festival. I luoghi e gli orari? Luoghi sono Palazzo del Cinema di Ravenna, in centro, per chi lo conosce. Abbiamo anche una deviazione al Cinema Jolly, che è anche quello in centro. Gli orari, il weekend cominciamo alle 16, durante la settimana cominciamo alle 18. Comunque, se andate sul nostro sito www.soundscreen.org trovate tutte le informazioni, gli orari, eccetera. Quarta edizione del Soundscreen Film Festival Play the Movie a Ravenna dal 21 al 28 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Albert Bucci. Un abbraccio in bocca al lupo e a prestissimo. Grazie, grazie a te, ciao.